L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Circolate, non mi create l'ingorgo voi che siete miei parenti. Non mi costringete a punirvi. Tutti fuori, non proprio. Da lunedì parte la fatidica fase 2, ma non è tempo di ingorghi, anzi. Buon sabato da Anna Migliorati, niente ingorghi, ma come ci si muoverà? Invece, per andare al lavoro, chi dovrà rientrare? Le città italiane sono pronte? Tutti fermi, avanti! Dipende, verrebbe da dire. Allora, dopo avervi raccontato tanto, e ancora lo faremo nei nostri giornali radio, andiamo anche a vedere che succede proprio nelle città. Ernest Young ha stilato una classifica delle città italiane meglio attrezzate, e come spesso accade sono quelle che si erano attrezzate prima. Ma ne parliamo tra poco, perché la nostra storia ci porta innanzitutto a Cagliari, città che vince la palma di migliore e lo fa soprattutto per i trasporti pubblici per la ripartenza. Allora saluto Alessio Mereu, assessore alla mobilità del capoluogo sardo. Buongiorno, buongiorno anche a lei, grazie. Siete in qualche modo un esempio a quanto pare per la mobilità urbana e almeno per la ripartenza. Qual è il punto di forza? Ecco, noi abbiamo livelli di efficienza molto elevati in termini di offerta di servizi ai cittadini, molto organizzata, che in questi anni, ma parlerei di decenni, ha dimostrato di avere, come dire, un livello molto efficiente. Ora noi in questo momento chiaramente dobbiamo aggiungere a un livello superiore, diciamo, il distanziamento a bordo di un metro fra passeggeri, ingressi e uscite differenziati, mascherine a bordo, quindi incrementeremo l'offerta sull'ora di punta anche con l'aggiunta di vetture di rinforzo, chiederemo appunto agli enti, agli uffici, insomma le società che hanno un personale dipendente di programmare almeno durante la giornata tre tipi di ingressi e uscite. Ovviamente si può pensare di aumentare le corse, ad esempio nell'ora di punta, quando si ha un'azienda di trasporti sana e si hanno degli autisti e dei mezzi, e quindi questo è frutto comunque di investimenti di anni passati. Sì, questo sicuramente sarà necessario aumentare le corse, perché anche per riservare corse in orari ancora meno mezzi che voi avete già a disposizione. Noi abbiamo sì una flotta abbastanza numerosa che ci consente di, diciamo, di offrire un servizio abbastanza importante. Tenga conto che la società, tanto per essere ancora più chiari, la nostra società di trasporto è una società che da decenni mantiene, assieme a livelli di qualità, un bilancio inattivo, cosa non comune per le società di trasporto. Ecco, è questo uno dei punti di forza. Se io mi trovo una società di trasporto che è inattivo ai mezzi e alle possibilità, di fronte all'emergenza riesco a far fronte prima. Certo, è evidente, questo è un aspetto che va considerato, perché... Quanto costa il biglietto per i mezzi pubblici a Cagliari? Guardi, il biglietto costa 1,20 euro. Ci sono degli interventi da fare sui mezzi? Ma sui mezzi diciamo che no, stiamo cercando di potenziare le corsie preferenziali, perché questo renderà, come dire, più conveniente l'utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quello privato. Questo perché prevediamo che questo passaggio porterà gli utenti un po' di diffidenza a livello psicologico sull'utilizzo del mezzo pubblico, e quindi ci stiamo preoccupando di questo, perché un aumento del traffico privato avrebbe una ricaduta negativa. Quindi la ricetta è più mezzi nell'ora di punta, corsie preferenziali in modo che la gente sia comunque incentivata a prendere il mezzo pubblico ma con meno persone a bordo, e un'azienda economicamente sana e quindi che può permettersi tutto questo. Certo, questo è, diciamo, la sintesi di tutto. Grazie allora. Grazie a lei. Grazie allora per essere stato con noi. E dicevamo, però, c'è una classifica. Quali le città più attrezzate, quali gli investimenti del passato che ora sono punti di forza? Perché, come si è capito, sono state le buone decisioni del passato che ora aiutano a ripartire meglio. Saluto Andrea Dacunto, Ernest Young, benvenuto. Grazie a lei. La classifica che viene fuori dal vostro studio in qualche modo rimescola un po' la classica classifica di un'Italia divisa in due, nord-sud. Ovviamente influiscono anche i contagi. Quali sono le città che di fatto saranno più facilitate a ripartire e quali meno e perché? Ovviamente le città partono da situazioni e prospettive completamente diverse. Le città con maggior livello di contagio potranno essere costrette a avere mantenere una maggiore rigore nel distanziamento sociale rispetto ad altre, e quindi saranno favorite quelle che hanno una maggiore infrastrutturazione, in questo senso in termini di mobilità, di 5G, per abilità allo smart working. Le città del nord generalmente sono più mature nella gestione di queste infrastrutture, di questi fenomeni. Chiaro che però partono da situazioni di contagio molto più elevate e quindi saranno costrette a una ripartenza più cauta. In questo, come anticipava lei, la ripartenza potrebbe essere un po' più facile in alcune città medie, prevalentemente del centro-sud, che potranno approfittarne. Queste sono alcune, come Cagliari, che ha una ripartenza già prevista più facile per un sistema di trasporto integrato, sharing mobility, digitalizzazione piuttosto diffusi, e delle centrali di controllo urbano molto avanzate. Lo stesso si potrebbe dire per altre città del sud come Bari, Lecce, ma anche del centro come Siena, Pisa o alcune del nord come per esempio Udine, che hanno infrastrutture tecnologiche di ottimo livello e sono state abbastanza a riparo dal contagio. Quali sono invece le città che avranno più difficoltà alla ripartenza? Abbiamo diviso le città in quattro gruppi: quella di una ripartenza più facile, una ripartenza un po' più frenata, perché il livello di resilienza, quindi di prontezza delle infrastrutture e dei servizi, è più alta, ma che comunque hanno subito un grosso conteggio. Città come Milano, Piacenza, Bergamo, Brescia, Reggio Emilia o anche Aosta. Il terzo quadrante è quello della ripartenza cosiddetta lenta, tra virgolette, in cui la situazione in termini di contagio è più favorevole, ma su cui gli investimenti in termini di infrastrutture e sensoristica non sono state così pronte come le altre città, Caserta, Caltanissetta, di Viterbo. Quarto blocco è quello della città con una ripartenza un po' più critica, tra virgolette, dove entrambi gli elementi, il livello di resilienza delle infrastrutture e dei servizi, il livello di contagio, quindi la situazione di partenza, sono entrambe un po' più complicate, come ovviamente Cremona, Lodi, Lecco, Alessandria. Quali sono gli elementi sui quali si è investito anche economicamente e che adesso diventano punti di forza essenziali, o quali invece quelli sui quali si è fatta più fatica ad investire negli anni scorsi e quindi al contrario frenano? Noi abbiamo identificato e certificato sei leve su quindi il capitale degli investimenti fatti. Il primo è, come tutti immaginerete, un'organizzazione della risposta sanitaria all'altezza, che non significa soltanto di posti letto negli ospedali, ma anche la dotazione di medici, di farmacie, elementi diciamo più innovativi, quale lo sviluppo delle piattaforme di telemedicina e la diffusione. La seconda leva è delle infrastrutture di mobilità. È ovvio che devono essere capienti, come immaginavo. Prima pensavamo che dovessero essere puntuali. Cambiato un po' la prospettiva, prendo un autobus o una metropolitana, mi interessa arrivare in orario, adesso mi interessa che sia capiente. Esatto, che mi consenta di consentire di avere un distanziamento sociale minimo, flessibili in senso di capacità di integrare con strumenti di mobilità alternativa come il bike e il car sharing, la micromobilità, i famosi monopattini, tra virgolette, l'organizzazione della logistica urbana, quindi supportati da delle centrali di mobilità che alcune città hanno, su cui alcune città hanno investito, altre no. Terza leva fondamentale è quella della copertura delle infrastrutture di comunicazione banda ultralarga, ovviamente. Anche perché si è detto, abbiamo fatto tutti lo smart working, facciamo tutto online, ma l'online non è uguale in tutto il paese. E ha subito un picco di domanda, di modifica delle abitudini di consumo molto significativa. Figli a scuola, lavoro di due genitori e quindi con una capacità di banda mai sperimentata prima. Abbiamo il 5G, abbiamo l'ultra broadband che oggi ha una copertura molto cresciuta, l'FTTH va oltre i 6 milioni e 8 di unità abitative. Quarto blocco è la capacità di tenere sotto controllo la città. Cosa intendiamo per tenere sotto controllo la città? Significa avere elementi indispensabili per monitorare i flussi in tempo reale, prevenire. Quindi avere sempre chiaro cosa sta succedendo nella mia città. Ma anche poterla prevedere, essere un grande concerto in città, un grande evento in città, piuttosto che una bufera. Controllo intendo non controllo e monitoraggio di cosa fanno le persone, ma disponibilità di informazioni per poter prevedere il comportamento della mobilità in città. Che non è un controllo individuale, è una gestione di un flusso. Esatto, assolutamente. Quinta leva, servizi pubblici digitalizzati per consentire una continuità di erogazione, anche evitando gli affollamenti ai sportelli. Quindi l'anagrafe digitalizzata, le biblioteche digitalizzate e quant'altro. Fino ad oggi abbiamo sempre lavorato per consentire una interazione più facile al cittadino. Oggi serve anche per evitare affollamento degli sportelli. L'ultima leva che mi sentirei di segnalare è quella, la capacità di engagement digitale dei cittadini. Quanto ho formato i miei cittadini? Influenzati nelle loro modalità di comportamento? Assolutamente sì. L'Italia è sempre stata sul fondo delle classifiche, almeno europee o comunque dei grandi paesi, dal punto di vista proprio della gestione della digitalizzazione minuta, quella che riguarda tutti noi. Noi parliamo di economia delle piccole cose, proprio della nostra quotidianità. A questo punto uno scatto serve per forza, in qualche modo è questo che ci porteremo come eredità. Chiaro a tutti che questo momento non potrà lasciare le traiettorie di investimento e di sviluppo invariate rispetto a prima, e questo a maggior ragione anche a mio avviso nello sviluppo dei servizi digitali. È un'occasione che noi non possiamo perdere. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Uno sguardo doveroso, noi ci risentiamo sabato prossimo, ancora un saluto da Anna Migliorati, come sempre www.radio24.it, l'economia delle piccole cose.